Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. In Europa, ma anche nel resto del mondo, sale l'allarme recessione. Gli investitori hanno tentato nell'ultima settimana, anche in vista delle elezioni americane, di riaffacciarsi sui mercati, potenzialmente verso il ritorno alla normalità. Prospettiva prontamente delusa ieri con il nuovo pesantissimo allarme che si è poi ripercosso pesantemente in borsa, lanciato dal Fondo Monetario Internazionale, che ha avvertito: il prossimo anno non c'è più scampo, tutte le principali economie saranno in recessione. Ci sono comunque anche grandi aspettative intorno alla nuova presidenza americana, che dovrebbe avviare una stagione di riforme con effetti anche sui mercati finanziari internazionali, ma intanto la parola d'ordine in questo momento rimane tenere gli occhi aperti. E intanto, applicando alla lettera questo monito, stanno continuando i disinvestimenti dal sistema fondi in Italia. In ottobre il risparmio gestito nel nostro paese, dati di ieri, è letteralmente affondato, registrando il peggior risultato di sempre: 23 miliardi di riscatti. Dall'inizio dell'anno i disinvestimenti totali dai fondi comuni di investimento italiani sono ammontati a 114 miliardi di euro. Cosa succede? Che prospettive ci sono? Tante le domande che stamattina vorremmo rivolgere. Rivolgeremo ad Armando Carcaterra, direttore investimenti di BPM Gestioni SGR, Gianluca Gabrielli, direttore investimenti di Soprarno SGR. Però questi temi saranno domani anche la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore, dove si parlerà delle strategie per affrontare la situazione attuale. E credo, anzi, anticipiamo subito la cover story di Plus 24 con il collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, se non ho capito male, praticamente andrete ad indagare su quelli che potrebbero essere i settori che potrebbero avere la capacità di battere la recessione prossimamente? Battere la recessione è sempre molto difficile per tutti, questo è ovvio. E poi ci troviamo di fronte veramente a una crisi epocale, nel senso che questa crisi, l'abbiamo tentata di raccontare, è veramente forse la peggiore, ormai lo sostengono tutti gli osservatori, la peggior crisi dal dopoguerra, perché innesca due grandi fenomeni: la crisi del credito, che come dire, apparentemente sembra aver passato il suo periodo peggiore, ma riserverà probabilmente altre sorprese, e questo però si va a incrociare quasi simultaneamente con una forte frenata delle economie globali. Solo Cina e India riescono a tenere il passo, mentre tutte le economie avanzate vivranno un 2009 di forte contrazione. Questo vuol dire per le imprese ovviamente una forte frenata degli utili societari, che è un po' il motore delle quotazioni di borsa. Ma se questo scenario, è molto orientato al brutto, noi abbiamo ovviamente cercato di capire cosa può accadere, perché essenzialmente assisteremo, questa è la nostra consapevolezza, a borse estremamente volatili. L'avete visto negli scorsi giorni, c'è stato un rimbalzo molto forte che è durato 4 sedute prima dell'elezione di Obama. A elezione avvenuta la borsa poi ha stornato. Cosa significa questo? Significa che gli investitori di fatto non stanno sui titoli più di qualche giorno, nel senso che c'è un rapido compra e vendi nel tentativo di guadagnare qualche punto percentuale sui rialzi e ribassi molto violenti. Raggio d'azione, insomma, di brevissimo periodo, che è proprio brevissimo. Tra l'altro la contraddizione più forte con l'investimento nel mercato azionario, no? Ovviamente, perché dovrebbe essere un investimento di lungo periodo, ma qui cadono molti miti, nel senso che si è sempre detto che le borse, l'azionario sul lungo periodo dà remunerazioni sempre più alte di titoli di Stato. Abbiamo constatato che con questa crisi i valori degli indici azionari, in particolare l'S&P MIBA Milano, è tornato ai livelli del 97, cioè chi avesse acquistato azioni sul listino italiano e le avesse tenute in portafoglio dal 97 a oggi, si troverebbe oggi con i guadagni praticamente azzerati. Dentro questo scenario abbiamo provato però a ragionare su come sfruttare questa volatilità estrema, che è un po' lavoro che fanno i gestori professionali, ma che può tentare di fare anche un piccolo risparmiatore. E siamo andati a individuare con una griglia di valutazione, elaborata dal nostro gruppo di lavoro, i parametri molto empirici che anche gli analisti, i gestori professionali utilizzano per cercare di catturare quei titoli che possono avere la possibilità di fare dei rimbalzi. abbiamo preso tra le blue chip italiane quelle che hanno un rapporto prezzo utili sotto la media del listino, che ormai è molto contenuta, intorno a 8-9 volte i profitti futuri. Abbiamo trovato titoli che quotano 4 volte i profitti, 5 volte i profitti, quindi livelli molto bassi. Ovvio che questa cosa da sola non basta, siamo andati quindi a selezionare accanto a questi valori di prezzo utile anche il valore che la borsa esprime sul capitale della società, che si chiama prezzo patrimonio. Quando si quota sotto il livello del proprio patrimonio netto è come se la società fallisce domani, quello è il valore di realizzo della società, quindi un valore estremamente contenuto. E poi abbiamo preso però la redditività, perché è ovvio che un titolo può quotare molto poco, ma a volte è giustificato dal fatto che non ha più redditività. E allora abbiamo preso quei titoli che avranno un 2008, un 2009 con un forte calo degli utili, ma che poi hanno tutte le potenzialità di riprendere la corsa dei profitti, e quindi abbiamo preso quelle società che hanno una redditività sul capitale. Questi sono termini forse un po' tecnici, però anche il piccolo risparmiatore dovrebbe abituarsi a utilizzare questi strumenti di analisi per non pescare alla cieca. Abbiamo preso quei titoli la cui redditività è almeno del 10% sul capitale, il che vuol dire un rendimento del capitale almeno doppio rispetto a un titolo di Stato. E insomma, il risultato di tutta questa indagine la troviamo domani su Plus 24 del Sole 24 Ore. Fabio, io ti ringrazio molto per essere stato con noi, ma naturalmente ho preso appunti da tutte le tue indicazioni per poi girare queste, chiamiamole così, anche provocazioni ai nostri interlocutori di questa mattina a Salva Danaio. Fabio Pavesi diceva: è una crisi in cui sono caduti e stanno continuando a cadere molti miti, ma insomma bisogna anche poter essere in grado, anche se lo dovrebbero fare quasi esclusivamente gli investitori professionisti, di sfruttare la volatilità estrema. Intanto, prima di cominciare la nostra chiacchierata, ecco quello che è successo ieri. L'euforia per l'esito delle presidenziali americane ha già lasciato il posto all'ansia di grandi e piccoli investitori, preoccupati ogni giorno di più dalla salute dell'economia mondiale. All'indomani dell'elezione di Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, l'allarme recessione è tornato a scuotere le borse e gli acquisti degli ultimi giorni hanno lasciato il posto ai realizzi. E nemmeno il taglio dei tassi effettuato dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Inghilterra è riuscito a dare fiato alle borse, che in una sola giornata hanno mandato in fumo 300 miliardi di euro di capitalizzazione. Ad alimentare le nuove tensioni sui mercati ha contribuito ieri il Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto al ribasso la crescita mondiale, stimando che gli effetti più pesanti della crisi in atto arriveranno nel 2009. Chi pensava dunque che il peggio fosse passato è costretto ancora una volta a ricredersi. Ritrovare la fiducia e tornare a investire sembra dunque, in questo contesto, soltanto un'illusione. Le borse continuano ad essere in preda a una volatilità diffusa e le prospettive per i prossimi mesi sono più che mai incerte e poco incoraggianti. Occorrono dunque nervi ben saldi per buttarsi sui listini azionari a caccia di saldi. Le alternative? Sul fronte del risparmio gestito, le cose di certo non stanno andando meglio. Anzi, la fuga dai fondi è sempre più eclatante. In ottobre sono circa 23 i miliardi usciti dal sistema, un nuovo record che porta a oltre 120 miliardi i deflussi da inizio anno. Chi volesse invece rifugiarsi nei vecchi e sicuri titoli di Stato deve tenere presente che ultimamente offrono rendimenti tanto bassi da non coprire nemmeno il tasso di inflazione reale. Ai risparmiatori, dunque, non resta che avere pazienza e posizionare il proprio investimento, diversificandolo, sul breve termine, con poche certezze, se non quella di una grande volatilità. Volatilità che tra l'altro abbiamo visto anche questa mattina in borsa. I listini europei sono partiti con un tentativo, un cenno di rimbalzo dopo i cali molto forti di ieri, ma questo rimbalzo tra l'altro è fallito poco dopo. Adesso invece i listini europei tornano a rafforzarsi, guidati da Londra, che ieri è stata la protagonista del taglio dei tassi di interesse più forte che si sia mai visto nel Regno Unito, un punto e mezzo secco da parte della Bank of England. E infatti Londra è la piazza che stamattina ha più respiro, più 2%, mentre sono un po' più cauti i rimbalzi di Parigi e Francoforte, più 0,9, addirittura Milano non riesce neanche a rimbalzare, negativa di mezzo punto percentuale. Buongiorno ad Armando Carcaterra, direttore investimenti di BPM Gestioni SGR, buona giornata. Buongiorno. buongiorno a voi. E buongiorno anche a Gianluca Gabriele, direttore investimenti di Soprarno SGR. Buongiorno a tutti. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Da cosa cominciamo? Dal nuovo tracollo dei fondi di investimento o dai mercati? Cominciamo dai mercati, così vi metto un po' più a vostro agio, se ci riusciamo naturalmente. Facevamo delle considerazioni prima con il collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi, sulla indagine che Plus 24 ha fatto e che pubblicherà domani sulla gestione, diciamo, della volatilità estrema del mercato. Voi che strategia avete adottato in questo momento? Che ricetta avete applicato ai prodotti che gestite Carcaterra in questo momento per non solo battere e combattere la la recessione in arrivo? Quindi qui stiamo facendo ovviamente dei ragionamenti di fase preventiva, ma comunque l'economia è molto in difficoltà, appunto, ma soprattutto per gestire la volatilità del mercato. Come avete fatto in questo momento? Ma intanto cerchiamo, per quello che si può, di avere di mantenere comunque un profilo di rischio e di rendimento adeguato per i vari prodotti, quindi sicuramente non abbiamo ecceduto nel prendere rischi particolari, soprattutto per i prodotti appunto normalmente a basso rischio. E questa, diciamo, è un'osservazione anche che mi permette di fare una battuta in relazione all'altro tema, appunto quello dei fondi comuni, perché poi appunto sicuramente è un anno che è stato difficilissimo soprattutto per i mercati azionari, ma in questo momento comunque non si può non ricordare che comunque ci sono tutta una serie di categorie di fondi comuni, malgrado i disinvestimenti, che presentano ritorni positivi da inizio anno, in linea anche un po' con quello che diceva, diciamo, il servizio che appena avete mandato in onda, ma evidentemente in un momento di difficoltà economica sappiamo che i tassi di interesse, diciamo, si muovono verso il basso, e questo è un fenomeno molto semplicemente che favorisce gli investimenti obbligazionari, soprattutto in titoli di Stato, per cui ricordo che la maggior parte dei fondi comuni obbligazionari dell'area euro hanno dei rendimenti compresi fra il 2 e il 4%, così come anche i fondi, diciamo, monetari a più breve termine. Per non parlare, ma questo è un caso specifico che non ha, diciamo, molta rilevanza, del fatto che chiaramente i fondi obbligazionari internazionali stanno andando molto bene, perché finalmente, diciamo, dopo tanti anni di rivalutazione l'euro si è svalutato quest'anno, e per cui gli investimenti in obbligazioni, in titoli di Stato di altri paesi, semplicemente anche America e Giappone, sono saliti tanto per i cambi. I cambi sono una variabile molto volatile, per cui i fondi obbligazionari internazionali non sono prodotti a bassissimo rischio, però, diciamo, anche quella è una categoria che porta risultati positivi. Per cui diciamo che una strategia normale di affrontare un momento di estrema difficoltà economica con prodotti tradizionalmente difensivi in un contesto del genere, come i prodotti obbligazionari, quest'anno ha portato dei buoni risultati. Me la serve su un piatto d'argento Carcaterra. Io intanto ricordo anche il numero verde 800240024 per le domande degli ascoltatori. Fondi obbligazionari hanno comunque portato a casa un risultato positivo che magari non arriva tanto a coprire l'inflazione, ma rispetto al tracollo della borsa è pur sempre un ottimo risultato. Allora perché in ottobre sono usciti tutti dai fondi obbligazionari? Sui 23 miliardi di riscatti totali, gli obbligazionari hanno perso 19 miliardi. Lei come se lo spiega? Al di là del fatto che le banche, adesso poi non voglio entrare di nuovo in questo discorso, invitano i sottoscrittori di fondi a uscire da questi prodotti per vendere altro, e nella fattispecie adesso obbligazioni bancarie. Però, voglio dire, è del tutto irragionevole un atteggiamento di questo tipo. Ma tutto sommato direi di sì, anche evidentemente per quello che dicevo prima. Non so se ci sia una convergenza di alcuni fattori, tipo che comunque la crisi di fiducia a un certo punto intacca qualunque cosa, e purtroppo si tende spesso a fare di tutta un'erba un fascio, e quindi qualunque tipo di prodotto viene messo in mezzo, magari per paure appunto ingiustificate. Magari ci può essere qualche, anche perché in realtà gli esempi particolarmente negativi, soprattutto nell'ambito dei fondi e dei fondi obbligazionari, sono veramente pochissimi, per cui non si riesce neanche a trovare una ragione in quello. Secondo me è sicuramente una questione di estrema paura. Ricordiamo che ottobre è stato un mese sicuramente tremendo dal punto di vista dei mercati. mercati, si sente parlare, i problemi diventano la sostenibilità, del sistema finanziario internazionale, le persone si preoccupano addirittura se i soldi sul conto corrente siano al sicuro o no, e quindi di fronte a paure di questo genere qualunque altra cosa viene percepita come comunque in qualche maniera rischiosa. Maggior ragione poi che c'è il problema appunto dell'intervento degli stati, delle garanzie appunto su determinati prodotti e non su altri, e per cui anche questo diciamo favorisce magari comportamenti un po' estremi. Ma infatti io adesso, mentre lei mi stava facendo questo ragionamento, mi sono ricordata di un ascoltatore che abbiamo avuto ospite appunto di Salvadanaio al telefono nell'ultima puntata dedicata proprio al rapporto con la banca in una fase delicata come questa, e ci raccontava che pur avendo dei fondi che non avevano un rendimento non accettabile rispetto ad una fase difficile come quella attuale, ha liquidato tutto, disinvestito tutto per portare tutto sul conto corrente, perché grazie alle garanzie dello Stato che sono state rafforzate in questo momento, così come è successo in tutto il mondo, lui dice il conto corrente è più sicuro di un prodotto di investimento, per cui siamo veramente nella schizofrenia totale, ma non per dire che l'ascoltatore è schizofrenico, insomma è un comportamento comune in questo momento, siamo ossessionati dal fatto che la nostra banca possa chiudere i battenti e portarci via tutto il nostro denaro, di conseguenza ci siamo comportati ad ottobre almeno, speriamo che adesso arrivi un po' una schiarita. Gianluca Gabrielli, direttore investimenti Soprarno, SGR, non mi sono dimenticata di lei, mi piacerebbe sentire anche le sue considerazioni rispetto ai punti che abbiamo toccato fino a questo momento. Chi è uscito per esempio dal fondo obbligazionario in una fase come questa, pur portando a casa tutto sommato almeno la protezione del proprio capitale, ha fatto un errore grave oppure insomma tutto sommato ci sta in un momento come questo? Ma dipende un po' dall'orizzonte temporale, nel senso che l'investitore ha. A mio avviso, diciamo così, il peggio della crisi purtroppo deve ancora arrivare, soprattutto in Europa. E all'interno dell'Europa, soprattutto in Italia. Quindi, anche per riallacciarmi a quello che si diceva prima, io non sarei tanto sicuro che la liquidità o i titoli di Stato italiani sono un porto sicuro per gli investitori, perché ricordiamo che quello che è in atto, e lo diceva il vostro collega prima nel servizio iniziale, quello che è in atto nel mondo è una deflazione totale, nel senso di riduzione massiccia e veramente importante come controvalore degli attivi bancari, perché bisogna passare da totali attivi bancari da 30-40 volte il patrimonio, bisogna passare a un più sano 20 volte il patrimonio. Questo significa una ondata deflattiva da credito che a mio avviso non ha precedenti e che purtroppo colpirà tantissimo tutti quelli che sono grandi debitori. Questi possono essere imprese, quindi le imprese molto indebitate, gli stati molto indebitate, le famiglie molto indebitate. E purtroppo, come dicevo prima, se noi andassimo a vedere quali sono le aziende più indebitate al mondo, purtroppo avremo una sorpresa. Non sono quelle statunitensi, che nella maggioranza mostrano una posizione finanziaria netta positiva addirittura, sono quelle europee o quelle italiane. Basta andare a vedere i bilanci delle principali società quotate in borsa in Italia e noi scopriremo che società industriali o società utility, autostrade piuttosto che altri settori, hanno debito che tranquillamente 2-3 volte il patrimonio. Difficilissimo trovare la stessa cosa negli Stati Uniti. Parliamo dello Stato italiano, 104 debito PIL, a mio avviso non si è preso in considerazione che in Italia, in Europa avremo una recessione a mio avviso nell'ordine di un punto percentuale, quindi io sono più pessimista del Fondo Monetario Internazionale. Secondo me in Italia noi andremo in recessione di almeno 2-3 punti percentuali nei prossimi 2 anni, e questo significa un calo delle entrate e le uscite che a mio avviso difficilmente riusciranno a crescere meno del tasso di inflazione. Questo cosa vuol dire? Che a mio avviso trovarsi in assenza di manovre correttive da un 104 di debito PIL come rapporto a un 112 è un attimo, e se questo dovesse avvenire forse la cosa migliore non è vendere, mettere in conto corrente o vendere obbligazioni, la cosa migliore è forse iniziare ad acquistare selettivamente azioni nelle aree che sono state più colpite e sono state colpite prima da questa crisi e che hanno già multipli interessanti, come appunto il vostro servizio citava. Essenzialmente queste sono negli Stati Uniti e nell'Asia. Bisogna vedere se questa è una fase adeguata anche a mantenere i nervi saldi e a permettere appunto anche una selezione, ma questo è un altro problema. Magari è il tema da cui partiremo nella seconda parte di Salvadanaio. Cominceremo a sentire anche i nostri amici che ci seguono da casa. C'è Alberto da Brescia, pronto, poi vorrei leggere anche qualche messaggio e precisare all'ascoltatore o all'ascoltatrice, non so chi sia, che ci chiede di parlare dei mutui agganciati ai tassi BCE, non sono ancora partiti. So che abbiamo un ospite della Popolare di Milano in studio, non è la persona adeguata a parlare di mutui, ma di questo prodotto parleremo nella prossima settimana, ne abbiamo parlato anche abbondantemente ieri. Eccoci di nuovo in diretta, Salvadanaio, oggi di nuovo sui temi di mercato, alla luce un po' di tutti quei fattori che hanno caratterizzato questa settimana. Borse tutto sommato bene, e tutto sommato, nonostante il tracollo di ieri, hanno ancora globalmente, credo, un bilancio positivo dalla chiusura di venerdì scorso, e quindi insomma il ribasso di ieri non è riuscito ad annullare questo bilancio positivo. Borse che avevano vissuto un'attesa positiva rispetto alle elezioni americane, poi ieri è arrivata la nuova doccia fredda del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto recessione per tutte le economie nel 2009, e tra l'altro già queste indicazioni erano state date anche dalla Commissione Europea per quello che riguarda l'Europa appena pochi giorni fa, ma per la verità le indicazioni del Fondo Monetario sono state ancora più pesanti. Detto questo, cosa facciamo con i nostri investimenti? Dove andiamo? Dove puntiamo? E quali sono quei settori che potrebbero battere la recessione? La domanda che ovviamente si fanno tutti, soprattutto gli investitori professionisti. Noi stamattina stiamo cercando di capirlo con Armando Carcaterra, direttore investimenti di PM Gestioni SGR, Gianluca Gabrielli, direttore investimenti Soprarno SGR. Tra l'altro, alla luce delle indicazioni che ci aveva fatto prima, ci aveva dato prima Gabrielli, che non vede una situazione non tanto negativa al prossimo anno, ma la vede proprio molto peggio anche del Fondo Monetario Internazionale. Ci sono degli ascoltatori che ci stanno esprimendo anche dei gesti scaramantici, Gabrielli, così glielo dico anche per ravvivare un po' la nostra conversazione di stamattina. Apro però anche i microfoni ai nostri ascoltatori adesso, 800240024 per le vostre domande. Ivan da Ravenna, promotore finanziario, buongiorno. Io già vedo in anticipo la considerazione che lei vuole fare e che molte volte abbiamo fatto anche da questi microfoni, però sentiamo insomma cosa pensa rispetto alla situazione attuale. Salve, buongiorno. Guardi, io sono, come ha detto, un promotore finanziario e vorrei dire che in questi periodi assolutamente non vedo queste forti richieste di riscatto da parte dei risparmiatori. Quindi la prima riflessione è che se non vengono sollecitati a farlo, difficilmente autonomamente lo fanno, quindi è il canale bancario che li porta a uscire per poi comprare titoli di raccolta diretta. Due, anzi, il fondo ne esce rafforzato da questa crisi in termini di tutela dell'investitore da fronte del rischio emittente. Quindi assolutamente giudizio positivo. Beh, lei certo, Ivan, evidentemente lei è un bravo professionista e ha convinto i suoi investitori. Allora come giudica l'atteggiamento di tutti gli altri che invece scappano a gambe levate? A parte la banca o l'intermediario, chiamiamolo così, che dà un suggerimento evidentemente diverso. Uscite dal fondo, comprate, come lei dice, uno strumento di raccolta diretta, per esempio un'obbligazione. Sì, questo e a volte anche prodotti molto meno efficienti, come possono essere index o unit linked molto più remunerative per un kilo call con l'emittente. Certo. Quindi, il vero problema io credo che risieda qua. Nel momento in cui ho un buon fondo, mi tutela sul rischio emittente, mi tutela se lo sa di gestione o la banca lo controlla, va in default. Non vedo questa... Ecco Ivan, però io immagino che i fondi che lei ha suggerito, che lei ha intermediato, mi passi il termine, verso i suoi clienti, comunque abbia dei risultati adesso non so quanto soddisfacenti. Come è riuscita a gestire anche l'incertezza dei suoi clienti? O tra i suoi clienti non c'è stato nessun atteggiamento in questo momento di paura? Non lo so, Riprende la condivisione delle scelte, cioè se io ho un fondo azionario che mi ha perso poi il 40%, è chiaro che se l'ho venduto dicendo gli investi qua perché solo perché l'anno scorso ha fatto il più 60 e guadagnerà il 30, allora il problema nasce. Se è una scelta condivisa sulle modalità d'utilizzo di uno strumento per degli obiettivi e esigenze, discorsi di poi per carità non fa piacere a nessuno ovviamente vedere il proprio però io credo che sia dipenda molto da come vengono fatte certe scelte e da come vengono condivise. La ringrazio, Ivan, per la sua testimonianza. Ci metto insieme anche la domanda di Alberto di Brescia, Alberto da Brescia, poi riprendo la conversazione con Carcaterra e Gabrielli. Alberto, benvenuto. Sì, buongiorno. La mia domanda è semplicissima, riguarda un fondo azionario che ho acquistato 4 anni fa. L'abbiamo sempre monitorato e abbiamo visto che i movimenti che aveva nell'ambito anche settimanale erano molto, molto bassi, quindi si parlava del 1+1-, rispetto alla percentuale. E abbiamo visto che invece in questo ultimo periodo si sta muovendo moltissimo da un giorno con l'altro, più o meno 5%. Adesso è in perdita ovviamente, come tutto il resto del mercato, intorno a circa il 20% rispetto all'inizio dell'acquisto che abbiamo fatto nei 4 anni fa. Sì. La domanda è, teniamo i nervi saldi, andiamo avanti, ricompriamo il fondo magari a quote, magari da saldo, aspettando ancora un po', oppure vendiamo, incassiamo la perdita e ci pensiamo fra un annetto. Alberto, allora naturalmente noi per poterle dare una consulenza appropriata dovremmo avere chiaro anche il suo profilo di risparmiatore, la sua propensione al rischio, però detto questo cerchiamo un po' di capire che cosa si potrebbe fare. Meno 20% rispetto all'acquisto avvenuto 4 anni fa, sicuramente questo è un fondo che ha annullato tutti i benefici del mercato toro, Armando Carcaterra, quindi... Però mi sembra che tutto sommato forse un meno 20% ci siamo anche. Ma sì, purtroppo la discesa dell'ultimo anno sicuramente ha portato via i guadagni degli anni precedenti, perché appunto tra l'altro dobbiamo ricordare appunto che i mercati azionari erano saliti abbondantemente dopo le difficoltà del 2000-2003, tra il 2003 e il 2007 i mercati azionari erano saliti moltissimo e il problema è che appunto nell'ultimo anno ci siamo rimangiati velocissimamente tutta questa performance. Adesso vendere, diciamo, sull'azionario in generale, vendere adesso significa scommettere su, un po' come diceva Gabrielli prima, su una recessione molto più forte e duratura di quanto normalmente non siano le recessioni. Ecco, lei tra l'altro condivide anche quell'analisi molto pessimista che Soprano ha fatto, che Gabrielli ha fatto? No, non tanto, nel senso che mi rendo conto anch'io che la situazione è molto difficile, perché appunto abbiamo una commistione tra una crisi finanziaria molto importante e un rallentamento economico altrettanto importante, per cui è probabile che non siamo in una situazione, diciamo, di fra virgolette recessione normale o comunque di rallentamento normale, quindi sicuramente il rallentamento è molto importante, molto serio e forse anche un po' appunto peggio di quello che si dice o che si ritiene, diciamo, nella media. Che questo possa portare a ulteriori grossi disastri in borsa, diciamo, considerando le asset class appunto più rischiose, può essere, però diciamo non è lo scenario principale che abbiamo in mente, nel senso che sicuramente in questo momento le valutazioni dei titoli in borsa in media sono molto basse. Ribadisco, per dire che le valutazioni non sono interessanti bisogna scommettere che oltre al calo degli utili che già si prevede adesso ce ne sarà ancora in dimensioni molto maggiori appunto di quello che già non sta avvenendo, e ricordiamo appunto che i tagli alle stime sugli utili soprattutto in queste ultime settimane stanno diventando veramente imponenti. D'altro canto anche voi nel servizio parlavate appunto di un'attività di selezione sui singoli titoli per andare a cercare quelli con valutazioni estremamente basse che comunque hanno una certa che mantengono una certa redditività, che non sono tanto indebitati eccetera, e queste sono effettivamente, diciamo, le cose, le variabili un po' da andare a guardare. È vero che il mercato è sceso tutto e forse in maniera troppo indiscriminata, potrebbe essere appunto il momento per cercare di andare a selezionare invece situazioni migliori da altre che effettivamente sono ancora più pregiudicate. Quindi diciamo questa è un po' l'attività che si sta cercando di svolgere adesso in ambito azionario, di vedere dopo i grossi crolli che ci sono stati, che hanno riguardato più o meno tutto, perché poi ricordiamo che comunque i settori più difensivi comunque hanno perso di meno, per cui il mercato in parte una certa attività di selezione l'ha già fatta e come normalmente avviene, però sicuramente ci può essere spazio per andare un po' a discernere di più nell'ambito di tutte tutte queste discese che si sono verificate. Ecco, tra l'altro, a proposito della sua teoria sulla selezione e il concetto di diversificazione, mi è venuta una domanda che spero di ricordarmi perché gliela voglio fare dopo, però dato tutto lo scenario che invece Gabrielli di Soprano ci ha dipinto prima relativamente e all'indebitamento dei governi, stamattina mi si intreccia la lingua, e quello anche delle società, le volevo rivolgere, Gabrielli, anzi le faccio rivolgere una domanda ad un ascoltatore di Milano che saluto. Paolo, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. A lei. Spero riusciate ad ascoltarmi bene. La sentiamo benissimo, Paolo. Perfetto, complimenti a tutti per la trasmissione. Niente, la mia domanda era questa. Io ho 37 anni e cerco di gestire al meglio i miei risparmi. Di solito uso un sistema fai da te. Ci è riuscito fino adesso, Paolo? Come ha affrontato questa crisi? Ci racconti un po'? Io fino adesso sono abbastanza soddisfatto, anche se poi a volte mi vengono degli interrogativi ai quali non so rispondere, per quello che oggi mi sono rivolto a voi, perché chiedere alle banche è come chiedere ai diretti interessati. Dunque, io per esempio nel mio patrimonio ho obbligazioni, azioni, perché ogni tanto mi lancio, e titoli di Stato che, ahimè, io forse sono la gran parte della mia credenza in questo tipo di investimenti. E proprio in questa occasione, stamattina si parlava di obbligazioni, di fondi che stanno un pochino creando dei problemi ai risparmiatori, ma la mia domanda è, i titoli di Stato... ci danno più sicurezza, non so, io per esempio ne acquisto spesso in borsa per conto mio senza passare dalle banche, faccio le mie piccole indagini, vedo quelli che secondo me hanno un buon rendimento e cerco di acquistarli con scadenze più o meno variate, insomma, differenziate fra di loro, in modo che se in un momento di necessità si può, uno dice disinvesto qualche cosa. E riscatta immediatamente, certo. Ecco, però la mia domanda era proprio questa. Quanto si rischia con un titolo di Stato, visto che stiamo parlando di obbligazioni, fondi che stanno un pochino creando dei problemi? Ecco, tra l'altro, Paolo, non le volevo chiedere, ma lei per esempio quando investe nel titolo di Stato guarda solamente al prodotto di casa sua, al prodotto domestico, al titolo di Stato italiano, al BOT, al BTP, o va anche a caccia di emissioni governative di altri paesi? No, di solito io guardo prodotti italiani, perché andare a guardare sul mercato estero poi si rischia di essere, almeno per quanto è la mia conoscenza, si rischia di rimanere un po' bagliati da un qualche cosa che poi in realtà potremmo non conoscere bene. Paolo, c'è sempre anche un discorso valute, va bene, eccetera. Gianluca Gabrielli, direttore investimenti di Soprano SGR, abbiamo ascoltato quello che è l'atteggiamento al risparmio di Paolo da Milano, ovviamente essendo posizionato, già detto, molto su titoli di Stato, immaginiamo anche che abbia un profilo di rischio molto conservativo, molto prudente. Detto questo, però, a questo punto, visto che questa è una crisi economica che ci ha fatto sollevare dubbi di ogni tipo, ci chiede, ma insomma, titolo di Stato lo possiamo considerare sicuro? Beh, almeno quello credo di sì, non ci dà grandi soddisfazioni dal punto di vista dei rendimenti, in questo momento stanno veramente risicandoli giorno dopo giorno, però... alla luce anche delle indicazioni da cui lei è partito, comunque i governi si stanno indebitando e anche il nostro da questo punto di vista non se la passa molto bene, però detto questo almeno le emissioni obbligazionarie dovrebbero essere tranquille. No, le emissioni obbligazionarie, qualsiasi Stato, se ha la possibilità di stampare moneta, può sempre inflazionare il proprio debito, quindi tecnicamente il debito interno di un paese non è molto, diciamo così, difficile che possa, diciamo così, essere dichiarato in default. Detto questo, riguardo alla rischiosità dei titoli di Stato italiano, non mi esprimo, anche per, diciamo così, evitare poi che gli spettatori magari facciano i gesti scaramantici di cui parlava prima. Le citerò due dati: spread BTP Bund, siamo intorno ai 100 punti base. 100 punti base vuol dire che oggi chi compra BTP richiede un premio al rischio che richiede, è lo stesso più o meno che richiedeva nel 97, dopo che Prodi aveva varato la manovra per entrare nell'euro. Quindi voglio dire, non è proprio un livello, diciamo così, di tutti i giorni. Altro dato, tenga presente che fino a 4 mesi fa un CCT aveva, con uno spread 15 centesimi sui BOT, quotava intorno alla pari. Oggi lo stesso CCT quota 97, quindi vuol dire che chi compra CCT rispetto all'investimento in BOT vuole 90 centesimi in più all'anno per detenere un titolo che ha come unica differenza rispetto al BOT il fatto che c'è una scadenza che non è 6 mesi per la restituzione del capitale, ma è la durata del CCT, nel caso specifico CCT 2014 o 2015. Quindi Voglio dire, il rischio è il mercato che lo decide. In questo momento il rischio è per il mercato, il rischio di un paese che ha un debito elevato e che quindi ha difficoltà o avrà molte più difficoltà dei nostri competitors europei a fare qualsiasi tipo di sostegno alla domanda, proprio perché partiamo purtroppo non da 60 come rapporto debito-PIL, ma da 104. Ecco, date queste indicazioni, Gabrielli, e tornando al caso del nostro ascoltatore, che ribadisco, guarda ad una determinata tipologia di investimento, perché da quello che abbiamo capito ha una propensione all'investimento molto prudente. Lei a questo punto che cosa gli suggerirebbe di fare? Voglio dire, in termini generali non possiamo dare una ricetta di investimento ad un'unica persona. Che cosa le suggerisce, insomma, il modo di muoversi del nostro ascoltatore? Ma in linea di principio io cercherei sempre di distinguere esattamente quello che voglio dall'investimento, cioè la parte del mio investimento che voglio che rappresenti uno zoccolo duro e che quindi sia intoccabile. Ecco, quella parte di investimento io non andrei a cercare i 20, 30, 50 centesimi in più. Io quella parte la metterei in titoli di Stato, obbligazionari di Stato, con un rating massimo. Quindi nella fattispecie io personalmente parlando, per quella parte che considero intoccabile e non intaccabile da qualsiasi evento prevedibile, io la metterei in Bund tedeschi o in titoli di Stato francesi. Per quanto riguarda invece l'altra parte, secondo me è il momento di iniziare a ragionare, e ragionare secondo me significa cercare di vedere quali sono le azioni non in Europa ma negli Stati Uniti o in Asia che stanno già scontando una recessione molto profonda, perché questi titoli in queste aree geografiche devono essere il primo tassello di acquisto per avere un po' di rischio nel proprio portafoglio. A proposito di delle zone che lei ha citato, non dobbiamo dimenticare, quando ci posizioniamo su questi mercati, di tenere in considerazione la variabile valuta. Vito da Bari, buongiorno. Buongiorno, senta, complimenti per la trasmissione. Grazie, Vito. Io le chiedo se in questo scenario che abbiamo di fronte conviene investire in valuta dollaro, per esempio, visto Obama, e in quale arco temporale, e se conviene metterli su un conto estero oppure prendere, comprare valute e metterle in cassetta. Vito, anche lì dipende sempre ovviamente da uno che cosa vuole fare con il proprio denaro e da che cosa si aspetta che da questo denaro investito ritorni. Armando Carcaterra, adesso senza voler ovviamente mancare di rispetto al nostro ascoltatore, ma insomma lui addirittura guarda l'investimento in valuta statunitense. Mi verrebbe da dirgli, ma non abbiamo altri problemi a cui pensare in questo momento, per prenderlo un po' in giro naturalmente, però insomma, visto che lui è appassionato della valuta americana, dato il risultato elettorale statunitense, lei che posizione ha su questa moneta, che ha recuperato un bel po' in quest'ultimo periodo rispetto alle altre divise internazionali? Sì, e come dicevamo prima, questo è stato un anno buono evidentemente per gli investimenti a basso rischio in valuta estera, soprattutto dollari e yen. In questo momento, dato il recupero che già c'è stato del dollaro, sinceramente a breve termine non vedrei ulteriori motivi per la continuazione di un forte rafforzamento del dollaro. Sappiamo che appunto, come si diceva prima, che in realtà tanti governi hanno da affrontare un'espansione dei deficit di bilancio e dei deficit appunto pubblici, l'America sicuramente anch'essa in prima linea, e questo evidentemente va un po' a discapito appunto del valore poi di lungo termine delle valute appunto dei paesi interessati. Certo, non è che anche i paesi europei siano messi bene da questo punto di vista, per cui riterrei che nel medio termine, volendo appunto evitare anche i rischi derivanti da questa dall'espansione delle politiche fiscali in tanti paesi, forse nel medio termine una valuta, volendo diversificare sulle valute, forse continuerei a stare in yen più che in dollari. Stefano da Treviso, se mi promette di fare una domanda telegrafica, la ascoltiamo volentieri. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Praticamente niente, io ancora nel settembre 2008, settembre di quest'anno, ho sottoscritto un fondo azionario Italia che investe nel segmento All Star. Sì. Quindi volevo sapere, siccome è un piano di accumulo, volevo sapere se queste aziende sono indebitate, se hanno delle buone prospettive, insomma. Stefano, grazie molto, altrettanto telegrafico, se vorrai, potrà esserlo, Gabrielli, direttore investimenti sopra Arno SGR. Allora, lei è lei che ha scatenato tutta la discussione sull'indebitamento anche delle aziende italiane. Ci chiede il nostro ascoltatore se almeno il segmento delle piccole aziende, quelle quotate negli segmenti appunto che rappresentano questa tipologia di aziende a Piazza Affari, se si può star tranquilli, secondo lei, ovviamente in termini molto generali. Sì, le maggiori società indebitate in Italia e in Europa sono quelle a dimensione, a capitalizzazione più elevata, e quindi da questo punto di vista non vedo particolari problemi. Il grosso problema, a mio avviso, del segmento All Star in Italia, quindi è un po' diverso rispetto alle medie e piccole capitalizzazioni in altri paesi d'Europa, è quello che le citavo prima, ossia secondo me l'Italia sarà un paese che più degli altri soffrirà della recessione statunitense e quindi del calo della domanda globale, perché ha dei problemi atavici che sono impossibilità dello Stato di sostenere la domanda interna tramite espansione di deficit, per via della scarsa competitività aggravata da un regime di cambio fisso euro rispetto alle altre valute europee che non ci permette di competere sotto questo punto di vista. E quindi la mia paura è che il segmento delle piccole e medie imprese in Italia sarà quello che più soffrirà, non tanto per via dell'indebitamento, ma per via del calo della domanda che secondo me in Italia e negli altri paesi periferici europei purtroppo si farà sentire di più che non in paesi come Francia o Germania. Grazie. Grazie a Gianluca Gabrielli, sopra Arno SGR, Armando Carcaterra di BPM Gestione invece SGR, per essere stati con noi. Salva Danaio, anche per oggi termina qui, ci risentiamo lunedì. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.